Capitolo 6. La liberazione. Montagnana, estate 1245. Il segnale arrivò all'alba di una mattina di luglio, quando la nebbia dell'Adige strisciava ancor bassa sui campi e i soldati del presidio erano mezzo addormentati nei loro turni di guardia. Era Giacomo a portarlo, trafelato, con i capelli rossi incollati di sudore sulla fronte e gli occhi accesi di quella luce che Milo aveva imparato a riconoscere come la luce delle buone notizie. «Si muovono!» disse il ragazzo, senza nemmeno chiudere la porta. «Gli armigeri di Castelbaldo si muovono. Rinaldo ha dato il via. 80 cavalieri sull'Adige. La fanteria segue a meno di un giorno». Nel retrobottega calò un silenzio assoluto. Poi Bertone si alzò, lentamente, con quello scricchiolio delle ginocchia che era diventato il suono del coraggio per Milo. Il vecchio soldato non disse niente. Prese la sua spada dal chiodo al muro, la guardò un momento come se ringraziasse qualcuno, e la appese alla cintura. «Allora è oggi», disse semplicemente. Erano le seconde ore del pomeriggio quando la sentinella sulla torre nord diede l'allarme. Ma era già tardi. Mentre le trombe del presidio cominciavano a suonare, Milo era già al portone secondario. Aveva le mani che tremavano, le stesse mani che aveva imparato a far smettere di tremare. Ma il cardine cedette esattamente come suo padre aveva promesso, con uno scatto preciso e silenzioso. Il portone si aprì verso l'interno. Fuori c'era la pianura, e nella pianura c'era la cavalleria di Castelbaldo. Rinaldo da Castelbaldo era un uomo sulla cinquantina, con la barba bianca e la corazza ammaccata di chi non ha mai combattuto per apparire. Quando il suo cavallo varcò il portone aperto, guardò Milo con quegli occhi diritti dei soldati che non perdono tempo. «Figlio del fabbro?» chiese. «Sì, messere». «Ottimo lavoro», disse Rinaldo, e passò oltre al galoppo. Fu Giacomo a salvargli la vita, quella mattina. Milo non lo vide arrivare. Stava respingendo un soldato nemico verso il muro, quando un secondo si avvicinò dal lato cieco. Sentì un urlo, quella risata di Giacomo trasformata in grido di battaglia, e il secondo soldato cadde di lato colpito da un sacco di farina lanciato con precisione impressionante dall'alto di un balcone. «Non avevamo concordato i sacchi di farina nel piano», urlò Milo. «I piani si migliorano», disse Giacomo, già sparito per le scale. Nel tardo pomeriggio, quando le ombre dei campanili si allungavano sui vicoli e il fumo degli scontri cominciava a dissiparsi, era chiaro che la battaglia era vinta. Montagnana rimase contesa per anni, ma il controllo diretto del romano sulla città era finito. Quella sera Milo sedette sui gradini della bottega di suo padre. Corrado era accanto a lui, in silenzio, ma era un silenzio diverso. Era il silenzio di chi ha finito di aspettare. «Bertone», disse Milo alla fine. «Il momento giusto è arrivato». Il vecchio soldato guardò la piazza, guardò le torce, guardò il gonfalone di Montagnana che sventolava sulla torre più alta nella brezza della sera. «Viene sempre», disse. «Per chi ha la pazienza di aspettarlo?» «Ho fame», disse Giacomo. «Qualcuno ha del pane?» Corrado tirò fuori da sotto il mantello una pagnotta. La spezzò in quattro pezzi senza una parola. La distribuì in silenzio. Mangiarono così, seduti sui gradini della bottega del fabbro, mentre Montagnana si ricordava ad alta voce di essere viva.